perché sei tu Romeo. Rinnega tuo padre e rifiuta il tuo nome. O se non lo vuoi, tienilo pure e giuro. E giura di amarmi ed io non sarò più una Capuletti. Capolavoro assoluto. Questo è uno dei passaggi. Poi il dialogo con la rosa. Se una rosa dovesse perdere il suo nome, non fosse più chiamata rosa, non perderebbe di certo il suo profumo. William Shakespeare, Giulietta e Romeo. Beh, sapete bene come uno di Picaglia tenera come me davanti alle storie d'amore resta costantemente incantato. Questo è un tutti i tempi, è un mito. E con la curatela di Erti in una sede teatrale che è il Nuovo Teatro delle Passioni a Modena e in via Antonio Peretti nella città ducale di Modena dal 31 ottobre al 12 novembre, quindi è quanto mai estesa la realtà di Giulietta e Romeo. Stai leggero nel salto, è con Roberto Latini e Federica Carra, di e con Roberto Latini anche alla regia, che ho contattato per una presentazione in quanto non è casuale che sia così estesa la programmazione, in quanto vi sono un po' nella struttura alcune caratteristiche molto particolari e oltretutto non pensiamo a Giulietta e Romeo come qualcosa che sia legato meramente e prettamente alla storia d'amore in questo caso, ma è un'interpretazione dove c'è un aspetto che a me ha sempre colpito e quindi questo è qualcosa che si aggiunge al mio entusiasmo per questa presentazione, cioè del what if, della sliding door. Cosa sarebbe successo se quando c'è qualcosa che ci porta, a volte si dice, cosa sarebbe, come sarebbe stato se, basta un piccolo episodio, un what if. E non solo, infatti lo sentiremo a breve dalle parole di Roberto Latini per la presentazione, l'anticipazione di questo lavoro che, ribadisco, è al teatro, Nuovo Teatro delle Passioni a Modena. Giulietta e Romeo, stai leggero nel salto. Ascoltiamo bene anche la struttura dello spettacolo, che è un altro aspetto che mi ha particolarmente colpito. Sentiamo le sue parole. In scena del Breakfast Club ci porta a Modena, la curatela è di Erta, il Nuovo Teatro delle Passioni sarà in scena dal 31 ottobre al 12 novembre, Giulietta e Romeo, stai leggero nel salto, un dittico da William Shakespeare con la drammaturgia e la regia di Roberto Latini, che qua sono in sua compagnia telefonica. Buongiorno e ben ritrovato Roberto. Buongiorno a voi, è un piacere. Piacere nostro, anche perché la mia passione per Shakespeare, in più ho letto insomma alcune parti, perché di parti parleremo di questa interpretazione e giustamente ne vogliamo sapere di più. Intanto una durata estesa non è casuale, dal 31 al 5 novembre Giulietta con Roberto Latini, dal 7 al 12 novembre Romeo con Federica Carra. Ci puoi dire qualcosa di più su questa originale struttura? Che sono due spettacoli in dialogo tra di loro, il primo si intitola Giulietta, il secondo si intitola Romeo. Giulietta e Romeo sono nel loro parlarsi, nel loro dialogare, e sono due spettacoli in realtà indipendenti eppure interfacciati costantemente, perché fondamentalmente quella che proprio compone la parte testuale dei due spettacoli sono le scene in Shakespeare, in Romeo e Giulietta, in cui Giulietta e Romeo si parlano, proprio le cinque scene in cui loro hanno in cui loro parlano, Giulietta a Romeo e Romeo a Giulietta, i due unici interlocutori sono loro, ecco, quindi togliendo tutti gli altri, togliendo il Romeo e Giulietta da Romeo e Giulietta, rimangono quelle parole che si dicono loro due, quindi mi piaceva pensare a due strutture indipendenti che si incontrano in qualche modo negli spettatori che avranno voglia e slancio di venire in entrambe le situazioni e poi vediamo un po' come si compone. Sono molto curioso anch'io, ecco. Al Breakfast Club, ieri in mostra abbiamo parlato del grande lavoro, i dittici di Concetto Pozzati, anche oggi uno spettacolo in dittico, dal 31 ottobre al 5 novembre Giulietta con Roberto Latini, dal 7 al 12 novembre Romeo con Federica Carra, e sarà un gioco, uno sguardo, uno specchio, una grande sensazione, oltre che micro sensazione, con l'ispirazione tratto dal capolavoro di Shakespeare, con un style leggero nel salto che scopriremo poi il perché, il per come di questo volo. Infatti vi ho letto una parte della Capuleti anche per dare questa interpretazione, dove i generi sono assolutamente in conversazione tra di loro, in apertura della rubrica In Scena con questo lavoro. Ringrazio tantissimo Ilaria Cecchinato, redattrice, ormai si può dire, di Radio Città Fujiko, per questa segnalazione, seppur a Modena, secondo me veramente da seguire. Nuovo Teatro delle Passioni è in via Antonio, e via Antonio Peretti 9 a Modena. E a proposito del dittico, appunto, continueremo il nostro dialogo con Roberto Latini. Dittico, struttura particolare, e oltretutto c'è questo aspetto di genere. Giulietta con Roberto Latini e Romeo con Federica Carra. Anche questa è un'altra particolarità. Sì, in realtà, diciamo, non è il titolo dell'interprete, ma un po' della sezione. Quindi diciamo quella parte intitolata Giulietta, forse a il Romeo, ma ecco, già nel dirlo penso che invece non sia assolutamente vero, quindi ho concluso la frase. Certo, e hai specificato un aspetto che, anticipando un po' una mia domanda magari molto immediata, ma che può interessare ovviamente oltre che a me il pubblico, hai detto fruibili anche in maniera indipendente. Sì, sì, perché sono due punti di vista diversi, anche piuttosto diversi, devo dire, pur avendo un territorio poi comune, in cui questo dire di entrambi è poi processato teatralmente in due chiavi diverse, ecco, non è il fronte retro, non è il bianco nero, proprio sono due mondi diversi e indipendenti. Mi piaceva proprio pensare che fosse così e che potesse essere così, e così sarà. Dico, sono curioso perché ovviamente la seconda parte avrà a che fare con la prima, e appena avrò modo di vedere la prima, nel ritorno che ti dà ogni volta il pubblico, che può darci il pubblico anche stavolta, anche la seconda parte andrà in qualche modo ad aggiustarsi, ecco. Thank you. pochettino il cielo sta portando colori un pochettino più sereni, ed è anche un buon motivo di collegamento a quest'ultima parte di conversazione con Roberto Latini, che ringrazio tantissimo. Intanto stiamo sfumando il brano con la produzione di Nobukazu Takemura, Spiritual Vibes. Stesso modo, in maniera circolare, ci riporta la mia presentazione iniziale con questo what if, cosa sarebbe successo se, a proposito di lieto fine, e anche per il complemento a Stai leggero nel salto, nella presentazione di questa Giulietta e Romeo in dittico dal 31 ottobre al 5 novembre, Giulietta con Roberto Latini, dal 7 al 12 novembre Romeo con Federica Carra. È una prima assoluta, aggiungo io, e concludiamo con queste specificità appunto tra lo Sliding Doors e il concetto di lieto fine. Hai parlato di una definizione importante che hai dato tu alla sensazione del lieto fine, con una verità che sì, è brutale invece. Ma adesso, al di là della storia d'amore o come a un certo punto Romeo e Giulietta è stato insomma la bandiera della nostalgia del futuro mancato, che è una cosa molto precisa che in qualche modo credo abbiamo provato tutti quanti nelle nostre vite, cioè quando è successo un qualcosa che poteva andare altrove, poteva succedere ulteriormente, poteva accadere, e invece l'abbiamo mancato, insomma, poi a favore di tanto altro, mi piace pensare ogni volta, però c'è certe volte la nostalgia di quella mancanza, proprio di quell'occasione. Allora, più della tragedia dell'amore, credo che Giulietta e Romeo sia un po' la tragedia dell'occasione persa, però adesso che questo l'ho pensato, credo sempre un po' in un atteggiamento giovanile o giovanilistico, adesso penso che invece Giulietta e Romeo sia una bella metafora del tempo che passa, e credo che sia nei nostri anni, ognuno di noi vive, diciamo, un tempo in cui siamo stati Giulietta e Romeo, o uno o l'altro, entrambi, fino a una certa fase della nostra vita, poi cambiamo. Ecco, quegli anni lì sono degli anni giovanili che forse sono gli anni di Giulietta e Romeo. Stai leggero nel salto, insomma. Eh sì, bisogna stare leggeri, perché sennò il salto non salta. Infatti non si prende il volo. È un bel what if, come dicono, per gli atleti che non sono stati all'altezza delle aspettative, no? È un what sì. If, come sarebbe stato se, insomma, o per infortuni o anche qualcosa che non è andato per il verso giusto. E in questo caso, motivo di riflessione che arriva ulteriormente da un immenso classico, Giulietta e Romeo, il dittico con l'ispirazione da William Shakespeare, la drammaturgia e la regia di Roberto Latini. Ci sarà Federica Carra dal 7 al 12 novembre, Roberto dal 31 ottobre al 5 novembre, tutto ciò con la curatela di Erta, al Nuovo Teatro delle Passioni in quel di Modena. Io ti ringrazio tantissimo e ti auguro una buona giornata, Roberto. Grazie a voi, a presto, buon lavoro. Betty came by on her way, said she had a word to say about things today and fallen leaves. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose way to lose, but she believes. Gonna see the river man, gonna tell him all I can about the plan called Lila. if he tells me all he knows about the way his river flows and all night shows in summertime. Mike Evans alla voce è un'interpretazione di un brano del grande Nick Drake, Riverman, il fiume. Altra passione, il fiume, lo scorrere del fiume che apparentemente è uguale, ma quando poi ci voltiamo nel percorso notiamo che non è mai uguale. È un percorso, all'arrivo cos'è? Il fiume muore nel mare oppure rinasce con un'altra forma? Betty said she prayed today the sky to blow away, or maybe stay. Mi sono soffermato, non è una visione quella dello star leggero nel salto, che sia o giovanile o giovanilistica, ha dato da riflettere questa affermazione per lo spettacolo che sarà il nuovo Teatro delle Passioni a Modena, e ha lasciato da pensare, appunto, ci piace pensare che magari abbiamo fatto la scelta giusta, ma gonna see the river man, gonna tell them all I can about the plan called feeling free. Gli orari per quanto riguarda dal 31 ottobre al 12 novembre, martedì, mercoledì e venerdì alle 21, giovedì e sabato 19 e 18. Domenica ore 18, scusate. Comunque tutte le informazioni sul sito di ERT. Scusate le interruzioni, però ho voluto portare alcune emozioni all'interno anche di questo bellissimo brano, anche tutto il disco comunque, per lo Steve Evans Quartet, che lui è un dittico, semplicemente intitolato 1, 2, 7. My soul's bent on a pipe, I lost my mind in a wild romance. Mi è piaciuto molto anche a Cristina, un caro abbraccio Cristina, buona giornata, grazie. I learned to love the days gone by, each day that come and go is like the one before, my mind's lost till the day I die. Un caro saluto a Lino, magari ci rincontreremo al Torrione, anche se adesso per impegni familiari devi così assentarti in maniera comprensibile. E poi vedo che stai citando Treviso, la città sul Sile, una città meravigliosa, ville venete e soprattutto un'enogastronomia eccezionale. Beh, anche se in parte sono di impegni lavorativi, io vi auguro un buonissimo soggiorno e lui mi augura una buona planata per un altrettanto buon weekend. Grazie Lino. Know this before you start, my soul's been torn apart. I lost my heart. In scena, attenzione, procede con un altro spettacolo per quanto riguarda Agora, la rassegna arrivata all'ottava edizione, e l'attenzione per i teatri nella nostra pianura. Tutto ciò dopo la pubblicità. A tra poco.